perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Deborah Rosciani da sola per il terzo giorno consecutivo a due di denari, ma non preoccupatevi perché Mauro Meazza si sta rimettendo in sesto, torna con noi lunedì e sto tenendo in caldo tanti argomenti che lui dovrà affrontare naturalmente. Intanto io porto avanti il mio compito con una puntata molto ricca di notizie. Oggi parliamo di famiglie, figli e soldi e lo faremo da molti punti di vista. Intanto perché c'è un provvedimento importante, riguarda il pagamento delle tasse universitarie, finalmente la no tax area diventa una realtà. Parliamo di agevolazioni fiscali per le tasse universitarie non fiscali che riguardano le famiglie degli studenti meno abbienti, che quindi potranno non pagare le tasse per l'iscrizione all'università quest'anno. Ne parleremo tra poco con Daniele Grassucci di scuola.net. E sempre per quello che riguarda però le famiglie c'è un altro tema che è molto caldo e parliamo di tutti quei bonus che sono stati varati negli ultimi anni per le famiglie che crescono, per le mamme. E allora c'è stato un ascoltatore che ci ha segnalato che il bonus mamma domani non funzionerebbe, perché a quanto pare dopo aver fatto domanda lui ancora non sarebbe stato erogato questo bonus. Quindi abbiamo provato stamattina a fare chiarezza, abbiamo chiamato la dirigente IMSS, la dottoressa San Pietro, che ci aiuta sempre a capire come funzionano queste opportunità, e quindi rifaremo un punto di tutti i bonus in vigore e ricostruiremo naturalmente tutti quei parametri che è necessario avere per potervi avere diritto. Per tutti questi argomenti naturalmente potete già cominciare a chiamarci all'800 24 00 24, potete anche scriverci al 349 238 6666, riceviamo i vostri sms, riceviamo i vostri messaggi WhatsApp. C'è Giuseppe da Siracusa che ci tiene in particolar modo, che noi lo salutiamo in diretta a due di denari, e quindi Giuseppe un caro saluto. Giuseppe è uno dei tanti ascoltatori che sta celebrando con noi oggi il nostro 18° compleanno, quello di Radio 24, che mi fa particolarmente piacere naturalmente festeggiare. Prima di partire però con i nostri argomenti vi voglio anticipare un tema che noi approfondiremo domani ad Investire Informati. È un tema nostro, proprio del nostro programma, perché viene presentato proprio in questi minuti a Roma il nuovo rapporto Consob sulle scelte di investimento e di risparmio delle famiglie italiane, ricordando sempre che è in corso con molte iniziative la World Investor Week. Vi anticipo alcune delle evidenze più importanti di questo rapporto che domani scandaglieremo con maggiori dettagli. Pare che le competenze degli italiani in materia di investimenti finanziari rimangano ancora piuttosto limitate, sia per quello che riguarda le conoscenze, sia per quello che riguarda gli aspetti relativi ai modelli decisionali. Le persone interpellate da questo rapporto, domani ricostruiremo naturalmente anche il campione sentito, le persone interpellate, dicevo, mostrano di avere percezione sbagliata delle proprie conoscenze finanziarie, nel senso che sopravvalutano la propria preparazione in tema di appunto materie finanziarie. In più vi leggo anche questo passaggio che è molto interessante: circa la metà degli intervistati, in particolare i soggetti con conoscenze finanziarie più limitate, questo è un tema molto interessante che forse varrebbe la pena approfondire con Nicoletta Carbone, dichiara di provare ansia finanziaria. Infine, il 60% degli intervistati dichiara di risparmiare prevalentemente in maniera regolare, i restanti non sono in grado di farlo a causa di vincoli di bilancio molto stringenti, perché in particolar modo indebitati. Bisogna rispettare il mutuo, tutti i prestiti in corso, per cui si fa più fatica ad accantonare qualcosa. Insomma, tema assolutamente interessante che domani approfondiremo di più ad Investire Informati. Intanto direi che però possiamo partire con i temi di oggi. Studentessa universitaria, triste e solitaria nella tua stanzetta umida, ripassi bene la lezione di filosofia e la mattina sei giochina sulla scrivania. Non ho ricordato naturalmente che come sempre siamo anche in diretta Facebook, per cui salutiamo tutti gli amici che ci seguono nel nostro live. E un'altra cosa che voglio ricordare prima di partire con le tasse universitarie è che oggi, visto che abbiamo parlato poco fa di conoscenze finanziarie degli italiani, a Roma si celebra un'altra giornata che magari molti non avrebbero neanche avuto tanto il piacere di celebrare, la Giornata Nazionale del Risparmio Tradito. C'è una manifestazione in piazza Montecitorio che sta chiamando a raccolta tutti i risparmiatori coinvolti nei crack bancari di cui abbiamo nostro malgrado troppo spesso parlato negli ultimi tempi e che hanno visto andare in fumo i propri propri investimenti. Chiudiamo questa parentesi. Allora, oggi parliamo, come vi anticipavo poco fa, di figli a 360 gradi. La prendiamo alla larga perché ci occupiamo di quelli che vanno all'università, ma anche di quelli che sono nati da poco, pochissimo, di quelli che stanno arrivando. La prima notizia importante riguarda gli universitari e riguarda la conferma di un'informazione che circolava da tempo, che forse noi avevamo anche anticipato nel nostro programma e che è in realtà: la no tax area sulle iscrizioni all'università è finalmente realtà, ovvero l'esonero dal pagamento delle tasse per le famiglie meno abbienti. Daniele Grassucci, cofondatore e responsabile comunicazione di scuola.net, ormai uno dei migliori amici di Radio 24. Daniele, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno, e permettimi per l'occasione di fare tanti auguri a Radio 24. Insomma, potevi anche venire con una torta, perché non ci saremmo offesi, Daniele. Ma guarda, via etere è un po' difficile dematerializzare. La mangiamo una bella torta virtuale. Grazie Daniele, grazie mille per gli auguri a te e a tutti gli ascoltatori che ce li stanno facendo, perché davvero ci stanno travolgendo d'affetto. Allora, ricordo agli ascoltatori 800 24 00 24 per intervenire sui nostri argomenti di oggi, partendo proprio dall'iscrizione all'università. Quanto vi costa? Avete già pagato la prima rata, perché molte famiglie sono già partite, c'è chi ha già pagato in fase di preiscrizione, perché Daniele peraltro funziona così, perché magari qualcuno fa il test per l'ingresso di molte università già a partire dal periodo in cui sta sostenendo l'esame di maturità, e se passano i test qualcuno deve già pagare una prerata, mi sbaglio? Ma dipende, qua c'è una grossa autonomia da parte delle università, tant'è che l'unica cosa certa ad oggi è che uguale per tutti è l'esenzione per tutti quei ragazzi che fanno parte di famiglie il cui indicatore economico equivalente è inferiore ai 13.000 euro. Questa è l'unica cosa che vale per tutti, come anche nella fascia fino a 30.000 euro. In qualche modo sono stati calmierati la differenza tra l'importo delle tasse, che non può essere superiore al 7% tra l'ISE e appunto questo delta tra 15 e 30 mila allora, euro. Andiamo con calma, guarda, li rifacciamo tutti questi incentivi, facciamo un ABC molto dettagliato, ricordando, partiamo dall'inizio, ricordiamo dal fatto che questa misura di introduzione di questa no tax area è stata voluta dal Ministero dell'Istruzione, che è riuscito a far inserire nella legge di bilancio, nella legge di stabilità per il 2017, i fondi necessari per sostenere l'esonero delle tasse, appunto dalle tasse per le famiglie meno abbienti. Però sbloccare le risorse non è stato facile, no? C'è voluto un pochino. Sì, assolutamente sì, e poi anche paradossale, sono stati messi anche dei soldi in più per il diritto allo studio, quindi delle risorse aggiuntive non solo per esonerare dalle tasse, ma anche per sostenere i meno abbienti in tutto il percorso universitario. Parliamo di alloggi, parliamo di mense a costi calmierati, parliamo ecco di un sostegno proprio economico per il mantenimento, per i libri eccetera. Quest'anno ecco ci sono sul piatto 217 milioni di euro, che sono ancora pochi rispetto a quella che è la media europea in questo settore, però ci fa capire ad esempio come alcuni soldi magari potrebbero essere utilizzati meglio. Penso ad esempio al bonus cultura, che sicuramente ha aiutato ad incrementare le risorse per consumi culturali, però il bonus cultura ha cubato circa 300 milioni di euro almeno come stanziamento. Poi abbiamo visto insieme che non sono stati spesi tutti, però da un punto di vista forse di lungimiranza strategica, viste le cifre in gioco, magari prendere quei soldi e metterli magari sul diritto allo studio avrebbe fatto forse un favore migliore agli studenti, piuttosto che dare sì a ciascuno la possibilità di avere un piccolo consumo culturale, ma poi nulla che abbia che sia un investimento strategico. Certo. Per il futuro. Allora l'esonero parte già da quest'anno, no? Per le famiglie che ne hanno diritto, per gli studenti che ne hanno diritto. Assolutamente sì, parte da quest'anno, e poi come dicevo c'è tutta un'idea di calmierare i costi fino ai 30.000 euro di ISE. E altra cosa importante, però, per mantenere questa esenzione o comunque per mantenere queste agevolazioni bisognerà essere regolari con il percorso di studi. Ecco, infatti, perché non è che si tratta di un beneficio economico non razionale, nel senso che in qualche maniera il merito c'entra. Assolutamente sì, ed è stato proprio uno dei cardini della riforma, nel senso di riformulare in generale tutto il sistema della tassazione universitaria anche in base al merito. Poi ogni università l'ha declinato a proprio modo, però essenzialmente possiamo dire che sono stati recepiti ad esempio dei criteri di regolarità dello studio. Ci sono alcuni atenei in cui chi va fuori corso, chi non è regolare con gli esami paga di più. Poi sono stati anche introdotti dei criteri di costo reale, cioè ci sono alcuni corsi di laurea che hanno oggettivamente un costo superiore rispetto ad altri. quindi anche le tasse si pagano in proporzione, pur fatto salvo il merito e la no tax area, per cui ecco, se io ho diritto all'esenzione anche nel corso di laurea più costoso comunque non pagherò. Certo, allora ribadiamo un po' i criteri per aver diritto all'esenzione totale intanto, Daniele, per chi ha un indicatore della situazione economica equivalente un ISI al di sotto dei 13.000 euro scatta l'esenzione totale dal pagamento delle quote di iscrizione, ma in realtà c'è un regime agevolato che è previsto anche per gli studenti con un tenore di vita leggermente superiore. Ecco, qual è lì poi la, come dire, graduatoria dei pagamenti? Guarda, c'è un altro scaglione, sotto i 15.000 euro non si possono superare i 140 euro, sotto i 20.000 euro non si possono superare i 490 euro e poi c'è un limite nella fascia appunto superiore, quindi 30.000 euro, quindi la tassa non deve superare il 7% della differenza tra ISE e 13.000 euro, quindi tra, insomma, tra l'esenzione e questa fascia di garanzia. Dopodiché appunto si va a salire, però ecco, è chiaro l'intento di calmierare i costi per i redditi più bassi, almeno dal punto di vista ISE, perché poi ecco, tutti sappiamo che purtroppo non sempre l'ISE rispetta la situazione reale, perché ci sono tutta una serie di artifici che permettono ecco di dare un po' le carte in tavola, certo. Mettiamola così. Dove ci si informa per capire se la nostra università appunto ci riconosce questi incentivi, che in realtà poi non dipende, no, dall'università, perché dipende dalla propria situazione reddituale, ma in realtà anche voi sul vostro sito scuola.net, Daniele, fate una descrizione abbastanza accurata delle differenti situazioni che ci sono su base territoriale, intanto anche perché le università, lo dicevamo anche all'inizio, fanno pagare l'iscrizione e le tasse università in momenti diversi, no? Non è che c'è per tutti la scadenza, che ne so, tipo del 15 settembre, del 15 ottobre, in realtà c'è chi fa pagamento in una, due, anche in quattro rate, quindi una situazione molto eterogenea. Sì, tendenzialmente si cerca comunque di rateizzare il pagamento, però ecco appunto la prima rata ad esempio ha una variabilità, ci sono alcune università che hanno già richiesto appunto la prima rata verso tra la metà e la fine di settembre, alcune che lo faranno tra adesso e la metà di ottobre. Il modo migliore per informarsi è sicuramente il sito di Ateneo. Io, insomma, per costruire questa ricerca abbiamo interrogato Google in maniera molto semplice, tasse universitarie, nome dell'Ateneo. In genere il risultato più pertinente è proprio la pagina dedicata da parte dell'Ateneo a questa tematica. Molte università addirittura hanno anche un simulatore, per cui ecco, inserendo tutti i vari dati, corso di laurea, ISE e quant'altro, insomma, di variabile, permettono appunto di calcolare l'importo esatto della rata. Altre invece hanno degli schemi, quindi che poi ecco, richiedono allo studente di mettersi là con carta e penna o foglio Excel, insomma, a seconda dell'evoluzione, per calcolare la rata. Poi ecco, in ultimo ci sono i rapporti con la segreteria degli studenti. Uno studente iscritto comunque riceve delle informazioni anche da quel tipo di canale, quindi sistema informativo dell'università dedicato agli studenti. Allora, no, intanto stavo guardando se ci fossero delle domande da parte degli ascoltatori. C'è un papà che chiede se come disoccupato ultra cinquantenne deve tornare a accumulare reddito con la famiglia di origine. Vedo che non c'entra nulla col tema universitario. Chiaramente se dovesse avere un figlio che va all'università, probabilmente la situazione economica anche del papà contribuirà a consentire a questo ragazzo il riconoscimento della no tax area, no, Daniele? Sì, sì, comunque là è un criterio appunto di fiscalità legato all'ISE, nel senso la no tax area si innesta su un'altra normativa che appunto è di carattere fiscale e quindi riguarda l'indicatore della situazione, certo, economica equivalente, quindi là poi entriamo in un altro campo. Infatti, Daniele, abbiamo detto tutto su questa notizia, c'è qualcosa da aggiungere che mi sono dimenticata? Un'altra cosa interessante che ecco, io invito i ragazzi comunque a tenere in considerazione, innanzitutto ci sono le borse di studio, questo è anche il periodo per fare domanda presso gli enti di assistenza allo studio regionali per le borse di studio, non si sa mai, ecco, perché magari ci possono essere anche delle scontistiche sulla mensa piuttosto che sui trasporti, però ecco, bisogna secondo me tentare anche perché le risorse sono aumentate. Poi ci sono degli atenei che comunque incentivano il merito indipendentemente dal reddito, per cui ecco, ci sono delle esenzioni per chi ha preso 100 e lode, per chi ha preso magari più di 95, insomma c'è anche questo sistema di incentivi che sicuramente va conosciuto e quindi ecco, documentarsi in questa, diciamo, su questo tema, proprio sui siti di Ateneo, proprio per capire se si ha diritto anche ad altre forme di incentivo. Ecco, mettiamola così, che se si studia si portano a casa dei buoni risultati, magari c'è qualche riconoscimento inaspettato e forse vale la pena prendere l'università per quello che è, per un percorso appunto che deve iniziare, che ci porta avanti nella nostra vita, insomma studiare, e ci può portare anche da subito qualche beneficio economico. Grazie Daniele per essere stato con noi, buon lavoro. A voi buona giornata. Andiamo al prossimo tema. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. Allora, abbiamo letto diverse analisi dell'ultimo dato sulla disoccupazione italiana. Agosto ha registrato un buon andamento, merito della stagione turistica, della cancellazione dei voucher, vecchia maniera. Nel complesso il tasso medio è sceso all'11,2%. Voi direte perché? La prendi così alla larga per introdurre il prossimo argomento, perché come sempre la statistica presenta luci ed ombre, e tra le ombre occorre ancora una volta puntualizzare la situazione femminile, che in Italia continua ad essere preoccupante, perché il dato nel complesso ci dice che il numero delle donne occupate sta aumentando in Italia in linea con la tendenza nazionale, ma è anche vero che molti altri osservatori denunciano come sia ancora molto alto, troppo alto, il numero delle donne che lasciano l'impiego in concomitanza con la maternità e non riuscendo più a conciliare lavoro e famiglia non rientrano al lavoro o rientrano quando il bambino è già grandicello, con tutte naturalmente le fatiche che si possono fare a rimettersi nel circolo del mercato del lavoro. Anche nella consapevolezza di questi problemi molto netti, molto marcati per il nostro paese, negli ultimi anni sono state varate diverse misure di sostegno economico per consentire alle donne di rientrare al lavoro pagandosi la babysitter, il nido, la scuola materna. E quindi oggi cosa abbiamo deciso di fare? Di rifare un punto su tutte le iniziative ancora in corso, andando anche a caccia però di alcune tra virgolette criticità, che in verità non abbiamo evidenziato noi, ma ci sono state segnalate da alcuni ascoltatori. Allora vi leggo quello che ci ha scritto per esempio un paio di giorni fa Manuel. Lui si definisce un onesto cittadino che ha intrapreso una guerra all'INPS e ci racconta che dopo aver ascoltato il nostro programma nei mesi passati ha fatto domanda tramite patronato a maggio per il riconoscimento del bonus mamma domani. Adesso vi ricorderemo di che cosa si tratta. Il problema appunto di Manuel è che in realtà ha inoltrato la domanda ma ancora non sta avendo la liquidazione appunto del bonus. Lui dice: saranno anche pochi soldi per qualcuno, ma con mio figlio che necessita di un latte speciale che pago per una confezione da 400 grammi più di 50 euro, è dura, e quindi avrei bisogno di questi soldi. Noi siamo un nucleo familiare di 4 persone e lavoro solo io. Mi potete dare delle notizie? Matteo Prioschi, Il Sole 24 Ore, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno. E buongiorno e grazie anche per essere ritornata con noi, la dottoressa Maria Grazia San Pietro, dirigente generale ammortizzatori sociali IMSS. Buongiorno dottoressa San Pietro, ben ritrovata, grazie. Buongiorno. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, se anche voi siete nella stessa condizione o se in realtà il bonus vi è arrivato regolarmente, quali dei tanti in corso avete utilizzato, di quali avete usufruito, o se come dire la vostra famiglia si sta allargando e lo avete saputo da poco, magari ancora non avete le idee chiare sui vari incentivi che consentono appunto di alleggerire il peso economico dell'allargamento della famiglia. Allora Matteo, ci è sembrato di capire, poi ce lo siamo fatti anche raccontare da Manuel, che quello che non riesce a vedersi liquidato è il bonus mamma domani. Ribadiamo un po' le caratteristiche di questo riconoscimento, di questo contributo economico, poi cercheremo di capire perché Manuel non lo ha ricevuto. Sì, allora questo premio, appunto, poi tra l'altro fanno vari nomi simili, questo è conosciuto come premio bonus mamma domani. Sul sito dell'INPS viene qualificato come premio alla nascita 800 euro, così se poi uno se lo va a vedere sul sito dell'INPS trova, diciamo, il riscontro esatto e non fa confusione, perché appunto è facile confondersi. Mm-hmm. Allora, questo è un bonus una tantum che è stato introdotto da quest'anno e viene riconosciuto a tutti, vale 800 euro e viene erogato per ogni bambino nato, adottato o in affido preadottivo. Quindi, quantomeno sulla carta, le caratteristiche sono molto semplici, a differenza di altri bonus, ad esempio non ci sono limiti reddituali o così via. Semplicemente o già dal settimo mese di gravidanza, oppure quando il bambino è nato, si può fare richiesta per questo contributo, ovviamente fornendo l'unico l'obbligo è la cittadinanza italiana, fornendo tutte le informazioni richieste ovviamente dalla normativa, delle procedure, anche dalle indicazioni che sono state fornite dall'INPS, e poi il contributo viene erogato. Faccio una premessa, appunto, perché in questi giorni, anche a fronte della segnalazione del nostro ascoltatore, ho fatto così un po' di verifiche. In effetti bisogna riconoscerlo, cioè non è semplice sempre fare domande per questi bonus, un po' perché ovviamente ci sono dei paletti da rispettare, perché sono soldi che lo Stato eroga e quindi è giusto che si facciano determinate verifiche. In altri casi le procedure probabilmente potrebbero essere un po' semplificate. La raccomandazione comunque è di prima leggersi attentamente, diciamo, tutta la documentazione, le circolari dell'INPS, le indicazioni che ci sono sul sito loro, e poi procedere con calma, diciamo, all'attivazione, perché in effetti non sempre è di immediata comprensione, diciamo, il percorso da fare. Questo è vero, però magari per gli altri, per questo però mi pare che fosse sicuramente nella sua formulazione il più semplice di tutti, perché viene erogato direttamente. Il requisito fondamentale è essere diventate mamme, sì, mi pare, sì, di capire, e quindi forse magari per gli altri sicuramente bisogna capire a quale si ha diritto, quale è più conveniente anche per la nostra situazione familiare, no? Perché esatto, un conto magari se tu hai bisogno di mandare il bambino all'asilo nido, allora è chiaro che ti indirizzi su quello. C'è poi il bonus bebè, il famoso contributo degli 80 euro al mese, che magari qualcuno confonde con tutto l'altro incentivo, il bonus Renzi da 80 euro, per cui capisco il ragionamento che fai. Detto questo, il bonus mamma domani è il più semplice. Dottoressa San Pietro, un primo flash, poi devo andare in borsa e poi la faccio argomentare più nel dettaglio. Secondo lei ci sono altre persone nella condizione di Manuel che fanno fatica a capire perché la liquidazione non avviene, o potrebbe essere successo qualche cosa particolare legata alla situazione di questo nucleo familiare, e complessivamente, come dire, INPS sostiene che la procedura sta andando avanti liscia? Cosa può dirci a questo proposito, soffermandoci su mamma domani? Sicuramente la difficoltà rappresentata da Prioschi è reale. L'istituto fa un grandissimo sforzo in termini di informazione all'utenza, però al momento ci sono almeno 4 misure rivolte alle mamme, come insomma avete rappresentato. Il bonus mamma domani si caratterizza per una semplicità maggiore rispetto alle altre, però in ogni caso l'esigenza, come si diceva, di spendere soldi pubblici è quella che questi vadano a chi ne ha effettivamente diritto. Quindi praticamente la domanda deve essere completa in ogni sua parte, sono richieste delle allegazioni di documenti. A me dispiace molto per Manuel, mi piacerebbe conoscere, anzi se li avete vi chiedo di farmi avere i dati anagrafici con esattezza per capire se si tratta di una domanda che ha un problema. Il bonus è partito piano perché insomma forse i radioascoltatori ricorderanno che solo a maggio è stata messa in linea la procedura per la presentazione delle domande. Le liquidazioni sono partite più tardi. Ad oggi esistono al sistema oltre 300.000 domande che corrispondono più o meno a tutti i bambini nati in Italia, e sono state liquidate il 62% delle domande. Le informazioni della direzione generale sono quelle per le quali se le domande non hanno problemi in termini di correttezza della compilazione, se tutti i campi sono stati compilati, se tutti i documenti, nel caso del bonus il certificato di gravidanza, ovvero se il bambino è nato è stato indicato il codice fiscale in maniera tale da assicurare il controllo, vengono liquidati veramente rapidamente. Se c'è qualche problema è chiaro che la procedura viene rallentata, perché l'operatore, il funzionario INPS deve materialmente eseguire dei controlli, ma sempre con la finalità di assicurare la corrispondenza solo ed esclusivamente agli aventi diritto, perché si possono annidare anche insomma ipotesi di truffa anche per queste prestazioni. Allora ci fermiamo, abbiamo la borsa, intanto vedo che molti ascoltatori stanno già chiedendoci dei chiarimenti sui vari bonus in corso per favorire l'allargamento e la crescita delle famiglie italiane. 800 24 00 24, numero verde che continua ad essere a vostra disposizione ancora per una ventina di minuti. Potete anche scriverci al 349-238-6666. Nel frattempo io vi racconto anche che cosa sta succedendo oggi in borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. vi presenta. Due di denari. Famiglia cresce, diciamo che ecco, le nascite in Italia non hanno esattamente un trend soddisfacente per un adeguato processo demografico che compensi invece quello che succede appunto in una fase più avanzata della nostra vita. Detto questo, i problemi sono tanti: mamme che non tornano al lavoro dopo le gravidanze, dopo le maternità, perché naturalmente si fa fatica a gestire un bambino, i nonni non fanno più da ammortizzatori sociali come una volta perché continuano a lavorare anche loro, e magari poi quando si ritirano dal lavoro devono prendersi a loro volta cura di genitori ancora più anziani, e quindi non si fanno più neanche i nonni, non si riesce più a far neanche i nonni. Detto questo, per questo motivo anche lo Stato negli ultimi anni ha provato a dare dei sostegni economici alla famiglia per consentire intanto di alleggerire un po' le spese più ampie che ci sono in una fase delicata come questa, ma anche per consentire alle donne di rientrare al lavoro, magari erogando dei bonus per gli asili, per la babysitter, oltre ai vari bonus mamma e bebè, che sono così dei contributi economici che non hanno la finalità appunto di incentivare invece la frequentazione dei piccoli, dei nidi. Un panorama molto eterogeneo sul quale noi ogni tanto torniamo a far chiarezza, e questa volta abbiamo deciso di rifarla perché qualche genitore ci ha scritto lamentando il fatto che l'erogazione, in particolar modo dell'ultimo bonus varato, il Mamma Domani, che è partito la scorsa primavera, non viene correttamente liquidato pur avendo tutti i requisiti, che sono molto semplici come dicevamo prima, perché basta essere diventati mamme negli ultimi mesi. Allora 800 24 00 24, con noi Matteo Prioschi stamattina del Sole 24 Ore, che ne scrive diffusamente di tutto ciò molto spesso, e poi la dottoressa Maria Grazia San Pietro, dirigente generale ammortizzatore sociali dell'INPS. Stavamo commentando il caso di Manuel, e c'è Alessio dalla provincia di Verona che ci vuole dare la sua testimonianza. Alessio, benvenuto. Sì. Buongiorno. Praticamente i problemi più grossi che ho avuto con l'INPS sono stati la mancanza del modello SR163, che sarebbe quello di trasmettere l'IBAN con il timbro della banca. Ho avuto più problemi, anche se avevo già trasmesso con altri servizi sempre lo stesso IBAN. Ah, questa volta l'INPS ne voleva uno in più, dice lei? No, vuole sempre lo stesso modello, ma allegato alla domanda. Io lo allegavo tutte le volte, ma non so perché loro non riuscivano a vederlo. Ho capito. E vabbè, insomma, sono intoppi che si possono naturalmente verificare anche, dottoressa San Pietro, in ragione del fatto che poi le domande, quando un provvedimento parte, quando un bonus si rende disponibile, come in questo caso, le domande che arrivano sono migliaia, e ci può stare anche che fisiologicamente un piccolo intoppo di questo tipo si possa verificare, no? Rispondere. Il modello SR163 è un modello importantissimo, perché in realtà consente all'INPS di avere certezza che il richiedente la prestazione è titolare di quell'IBAN e che insomma il beneficio venga erogato a chi è effettivamente richiedente. Purtroppo non abbiamo ancora, ma ci stiamo lavorando e confidiamo di arrivarci in fretta all'abolizione di questo modello. Occorrerebbe un collegamento con gli istituti di credito, perché insomma il diffondersi delle carte prepagate ha fatto sì che l'autorità giudiziaria insomma assumesse informazioni in ordine a circostanze in cui erogazioni erano andate a non diretti beneficiari, perché erano stati indicati IBAN di altri soggetti. Certo. Quindi il modello SR163 consente di abbinare il beneficiario della prestazione al suo codice IBAN, e mi rendo conto che è un appesantimento, però è necessario a tutela proprio dei cittadini e dei richiedenti. Infatti, dottoressa San Pietro, adesso ne parleremo anche con lei, ne stavamo discutendo con Matteo Prioschi a microfono telefoni spenti. Il vostro sito IMSS è stato letteralmente, il vostro sito più che altro, il vostro profilo, il profilo IMSS su Facebook è stato letteralmente travolto di richieste, di domande, di delucidazioni su tutti questi incentivi e abbiamo proprio appurato che, come dire, questa moda, questa pazzia per i social network, come dire, portano molti di noi molto spesso a cercare per primo quell'interlocutore per chiedere chiarimenti rispetto a determinate informazioni di cui abbiamo bisogno. Voi avete dovuto addirittura, proprio in queste ultime ore, perché la comunicazione proprio di queste ultime ore, avete dovuto certificare le vostre pagine, esatto, sul social network. Per quale motivo? Anche per tutte le complicazioni derivanti dai bonus per le mamme di cui stiamo parlando questa mattina? Perché molte non erano autentiche, non provenivano da INPS e contenevano informazioni assolutamente non ufficiali. In realtà sono state veramente certificate e oggi le pagine che sono per le pagine presenti è stata confermata dalla direzione centrale competente l'autenticità. Insomma, è stato un lavoro lungo e anche molto faticoso, però è capitato anche questo nell'interesse dell'utenza. Si è ritenuto di fare questa operazione, certo, faticosa. Allora, certo è che se abbiamo bisogno di un'informazione, magari certamente può essere utile andare a curiosare su una social, pagina. Ma vengono prediletti perché contengono informazioni più brevi e più facilmente fruibili. In realtà esistono pagine informative in cui tutte le prestazioni sono descritte nel dettaglio, hanno una struttura simile che è fatta in questo modo. Cos'è la prestazione, a chi è rivolta, quanto spetta e quali sono i requisiti, sono tutte costruite in questo modo, quindi la lettura di quelle pagine, che comunque sono brevi, al limite saranno due o tre pagine, sicuramente orientano di più di informazioni che possono essere contenute in un social. Infatti. Mamma inglese, io italiano, lei vive da residente, lavora in Italia da più di 3 anni, speriamo di avere un bimbo a breve, potremmo richiedere il bonus mamma domani? Grazie Deborah, auguri da un fedelissimo ascoltatore a cui noi naturalmente auguriamo che la famiglia si allarghi. Matteo, vabbè, loro non hanno neanche ancora il bambino già, però insomma portano le mani avanti sapendo che dovranno spendere un po' di più. Lo avranno? Sì, perché è necessaria la residenza in Italia o la cittadinanza italiana o comunitaria. Dottoressa quindi... San Pietro, sì, ho chiesto a Matteo, potevo anche chiedere... Sì, avrei dato la stessa risposta. Perfetto. Matteo, bisogna fare un po' di chiarezza, no? Noi così immaginavamo a microfoni spenti di farla. Abbiamo tutto il pacchetto di contributi economici per la maternità e poi tutti quelli che si possono richiedere nel caso in cui si voglia mandare un bambino al nido. Quindi facciamo queste due grosse distinzioni rispetto a tutti i bonus che sono in vigore in questo momento. Sì, allora i bonus sostanzialmente sono 4 e sono 2 e 2, diciamo, per categoria. Allora c'è il bonus mamma domani, un premio alla nascita di cui abbiamo parlato fino adesso, appunto gli 800 euro a fronte della nascita e adozione di un bambino. C'è l'assegno di natalità o bonus bebè, come viene definito sulle pagine IMSS, appunto. Questo qua esiste dal 2013, è stato prorogato fino al 2018 e sostanzialmente riconosce 160 euro al mese per le famiglie che hanno un ISEE fino a 7.000 euro e 80 euro al mese per chi ha da 7.000 a 25.000 euro di indicazione di indicatori ISEE. La domanda va presentata entro 90 giorni dalla nascita del bambino, quindi anche questo è un tema importante da ricordare, e così almeno non perdiamo tempo, insomma, e se magari non lo riusciamo ad ottenere perché siamo un po' fuori dai termini per fare la domanda. Per quello che riguarda gli asili, contributi per la frequentazione degli asili nido? Allora, anche qua sono due. Uno, anche questo preesistente, che è il voucher babysitting o contributo asili nido, introdotto nel 2013, anche questo prolungato fino al 2018. Questo prevede, in buona sostanza, la corresponsione di un contributo fino a 600 euro al mese per un massimo di 6 mesi, a fronte della rinuncia del congedo parentale, cioè i mesi di astensione dal lavoro che si possono fruire oltre, diciamo, la maternità obbligatoria. Poi c'è invece il bonus asilo nido o un assegno una tantum per i bambini che sono affetti da particolari malattie gravi e quindi non possono frequentare gli asili. Questo bonus è stato introdotto da quest'anno e prevede la corresponsione di 1.000 euro all'anno in rate, diciamo così, in erogazioni mensili, massimo 11 erogazioni all'anno e quindi 90,91 euro al mese. In questo caso appunto sono degli aiuti che vengono corrisposti a fronte o della frequentazione dell'asilo nido oppure per pagare la babysitter o ancora per interventi strutturali a casa se il bambino deve rimanere a casa. Se ha bisogno di un sostegno particolare. Intanto sono le 11.47, Peter, vedo molti ascoltatori fanno gli auguri anche a te per questo compleanno di Radio 24. Tu c'eri dal primo giorno, c'eri dall'inizio e infatti si è messo anche la maglia verde proprio al ricordo del nostro vecchio brand. Ci fermiamo, c'è il traffico, a tra poco. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta Due di denari. Una monetina a te, una a te, una monetina pure a te. Insomma, bisogna metterne proprio da parte tante per gestire un bambino quando arriva una gioia immensa, ma insomma il portafoglio non è che non cambino le cose. Peraltro guardate, c'è un bel pezzo pubblicato sul blog Aleup che gestisce la nostra collega Monica D'Ascenzo per Il Sole 24 Ore, in cui si fa un punto, è stato pubblicato proprio due giorni fa, su quanto mi costa la cara babysitter. Dal 2017 sembra proprio che costino un po' di più. Vi leggo: la tariffa media oraria richiesta in Italia dalle babysitter è di 8,34 euro rispetto ai 7,46 del 2016, c'è stato un aumento di oltre il 10,5%, con però delle sensibili disparità tra nord e sud che registrano una differenza di circa il 17%. Le regioni più care sono la Valle d'Aosta, la Basilicata e insomma è un'analisi molto interessante da leggere, ve la suggerisco, magari ve la faccio girare su Facebook, visto che ormai è il vostro canale di reperimento delle informazioni preferito. Allora, con Matteo Prioschi stavamo facendo il punto di nuovo su tutti i contributi economici che si possono richiedere nel caso la famiglia si ampli. Volevo fare un piccolo focus sui bonus per gli asili nido, perché abbiamo il bonus appunto asilo nido fino a 1000 euro destinati al pagamento delle rette per la frequenza degli asili nido pubblici e privati, anche per forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con difficoltà, e dall'altra parte abbiamo i voucher, babysitting e contributo asili nido. Vengono erogati, Matteo, in maniera diversa. Breaking news. Interruzione, aggiornamento, perché è arrivato, come era atteso per quest'ora, il premio Nobel per la chimica. Va a tre studiosi: Jacques Debouchet, Richard Henderson, Joachim Frank, per lo sviluppo di una cosa che si chiama criomicroscopia elettronica. Di fatto è un nuovo metodo di microscopia che permette di fotografare, per così dire, l'infinitamente piccolo. Ne parleremo tra l'altro tra poco anche in GR24. Molto bene, non vediamo l'ora di apprendere qualcosa in più rispetto a questa specializzazione che si è guadagnata dal punto di vista della chimica il Nobel di quest'anno. Allora Matteo, i voucher babysitting, asili nido, le due tipologie, come vengono erogati, ribadiamolo ancora perché c'è un tema fondamentale legato all'accreditamento che i nidi devono fare per poter consentire alle famiglie di ottenere appunto l'incentivo. Allora, il voucher è quello da 600 euro al mese, alternativo al congedo parentale per intenderci, può essere speso sostanzialmente presso strutture che si sono, diciamo, accreditate, registrate presso l'INPS. E quindi la scelta è un po' più limitata. In passato ci sono stati un po' di problemi su questo fronte, perché le strutture stesse avevano poco interesse probabilmente a sfruttare questa possibilità. E in compenso poi i soldi passano direttamente dall'INPS alla struttura. Invece il bonus asilo nido, quello da 1000 euro che è stato introdotto quest'anno, si può utilizzare presso tutte le strutture, diciamo, ufficiali, però viene il bonus viene pagato a rimborso, certo. Quindi il genitore paga la retta, dopo presenta la ricevuta all'INPS e riceve, certo, il rimborso. Quindi ogni mese, o comunque, c'è la necessità poi di confermare di volta in volta la spesa sostenuta. Infatti, dottoressa San Pietro, ecco, se fossero un po' più semplici, questo non è colpa vostra, voi vi adeguate a quello che il legislatore appunto dispone. Per quello che riguarda l'accreditamento dei nidi, ci sono state delle novità nei mesi recenti. Quante sono oggi i nidi, le scuole che si sono accreditate per poter consentire alle famiglie di cogliere questa opportunità? Non tante, per la verità, perché questa è una misura che di fatto non è stata considerata particolarmente attrattiva. C'è da dire che la stessa è anche al momento compatibile col bonus asilo nido introdotto per l'anno 2017, purché la mamma non fruisca di entrambe le misure nella stessa mensilità. Inoltre, il bonus dell'asilo nido si può percepire fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Invece, come diceva giustamente il dottor Prioschi, il voucher babysitting, ovvero asilo nido, è alternativo al congedo parentale di cui la mamma fruisce alla fine del periodo di assenzione obbligatoria dal lavoro. E quindi c'è un periodo di tempo in cui i due potrebbero essere concorrenti, ma altrimenti il bonus asilo nido del 2017 dura più a lungo rispetto al voucher per gli asili nido. C'è da dire che le strutture non sono tante e che neanche la spesa è particolarmente elevata, perché per entrambe queste prestazioni noi parliamo di erogazioni che sono legate ad un vincolo di budget annuale. Per l'acquisto dei voucher per gli asili nido per l'anno 2017 il voucher è di 40 milioni di euro, però la stima è veramente ancora molto bassa, come del resto è molto bassa la stima del budget che sarà necessario per soddisfare tutte le domande di bonus asilo nido a fronte di un budget di 144 milioni. Certo. Ad oggi noi abbiamo 83.000 domande ed un budget prenotato di meno di 40 milioni. Ma insomma io direi che possiamo dare un sereno suggerimento al legislatore di razionalizzare un po' tutto questo mare di iniziative che ci sono, legarle al reddito, punto, perché poi uno con quello che ha in tasca fa quello che ritiene più opportuno per il proprio equilibrio familiare. Matteo, sì, 30 secondi perché stiamo chiudendo. Sì, no, sono una considerazione anche alla luce di quello che mi raccontavano un po' conoscenti. In alcune zone c'è proprio mancanza di asili nido, per cui anche volendo non si riesce a scrivere il bambino e quindi poi i bonus restano inutilizzati magari anche per quello. Allora, Raffaele da Udine, Isham da Cesena, scriveteci a duedidenari@radio24.it. Come avete sentito, la dottoressa San Pietro si è resa disponibile ad andare a verificare quei casi inceppati per capire le ragioni per cui non ottenete il vostro bonus. Noi intanto di Due di Denari torniamo domani con Investire Informati. Vi ringrazio. Buon compleanno a tutti voi ascoltatori.